Povera paglia come fustonetta, povera paglia come fustonetta, fuste mangiata con tutte le penne, e fuste mangiata con tutte le penne. A te compare te dogno la testa, a te compare te doi te dogno la testa, che io mi mangio lo per te le menne, che io mi mangio lo e doi lo per te le menne. Luca può la coda sempre gira, Luca può la coda e doi se sempre gira. Che do di me anzo coglialo lavoro, che do di me anzo e doi coglialo lavoro. Per due patrone che ingaggiamo vanno, bello patrone che, e noi che ingaggiamo vanno. Assai fatiche poa con lo governo, assai fatiche poa e poco lo governo. L'uveno nero basta un cannatone, l'uveno nero basta e doi bella cannatone. L'ucato nero basta rolle, l'ucato nero basta e doi bella rolle. Da con l'uveno se mette il grano, e con l'aceto se, e noi se mette la vena.